passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole c'è un'altra che retrocede. Sapessi quante ne ho viste di scalatrici sociali. Regalano due di picche aspettando un re di denari. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista. Ma non esiste prospettiva senza due punti di vista. Anche se fuori tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' allusi al momento. Mi appartengono. Fuori è magnifico, sì ma tu un po' di più. Se la bellezza a due passi a portata di manicure. Ma so che quando troveranno il centro dell'universo rimarrai delusa a scoprire che non sei tu. Ognuno coi suoi pensieri, i suoi segreti. Lo so, siamo divisi dallo spazio senza essere pianeti. L'amore rende ciechi, devo dirtelo. E io devo smettere di cercare le scarpe nel frigorifero. Ma tu non guardi me, continui a guardare fuori. Ti ho dato i giorni migliori dei miei anni peggiori. Contraddizioni e vizi, ognuno il suo. Ma questa notte dormo sul mio fianco preferito, il tuo. Anche se fuori tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' allusi al momento. Mi appartengono. Anche se fuori tutto è realistico, non lo prenderò come un rammarico. Fuori è magnifico, fuori tutto è magnifico. È possibile abbia sogni sbagliati.